Sì, il nome è rapporto proprio alla nostra esperienza, perché è un'esperienza che si ripresenta 5 anni dopo più forte di prima, forte anche dell'apporto di Coraggiosa, come altre forze politiche, penso all'articolo 1 Sinistra Italiana È Possibile, ma anche Solidale, che riflette il grande contributo di forze, di competenze civiche di sinistra che c'è in questa lista. Quindi una lista davvero che è espressione delle rappresentanze, dei movimenti, delle competenze di questa città, che vogliamo non che ci diano il voto, ma che si autorappresentino ed entrino direttamente nelle nostre istituzioni. I sondaggi sono molto favorevoli, noi siamo scaramantici, certamente il nostro obiettivo è ancorare a sinistra questa coalizione di centrosinistra e quindi aspiriamo ad essere la seconda forza della coalizione del centrosinistra a sostegno della candidatura di Matteo Lepore sindaco. Una lista che avete definito intersezionale. Sì, come avete visto è un mosaico sia per competenze e professioni, ma anche per provenienza geografica, per età. Abbiamo la più giovane candidata al consiglio comunale, credo 19 anni, ma abbiamo anche persone transgender, persone con disabilità, persone con diversa provenienza geografica, afrodiscendenti, e abbiamo più candidate donne che candidati uomini, ma questo non con uno sforzo, semplicemente è la lista che ci è venuta così ed è secondo noi la migliore rappresentazione della Bologna che vogliamo, oltre a una scadenza elettorale. Una lista che farà parte di una coalizione di centrosinistra che avete appena detto abbastanza straordinario essere riusciti a creare. Voi ci credete? Il candidato sindaco Lepore ha parlato anche di un partito unico laburista nel futuro di possibile di questa coalizione. Voi cosa ne pensate? Noi siamo espressione di un mondo che è quello della sinistra. Davvero puntiamo intanto a portare gli interessi di questa parte della città e, ripeto, di ancorare a sinistra la coalizione. Qualcuno l'ha detto prima con una battuta: abbiamo appena deciso di andare a convivere, non siamo ancora pronti per il matrimonio. Ma quello che è significativo e straordinario è che solo a Bologna si sta creando una coalizione che ha al suo interno una forte rappresentanza della sinistra unita e il Movimento 5 Stelle insieme al Partito Democratico. Quindi questo è davvero un unicum a livello nazionale. E se doveste appunto dire quali sono i punti di cambiamento fondamentali, quindi perché votarvi e che cambiamento soprattutto volete segnare? Quello che proviamo a dire è che siamo partiti dicendo che Bologna doveva essere la città meno diseguale d'Europa, okay. E siamo ancora più convinte e convinti di questo slogan, che racchiude un programma, lo slogan di 5 anni fa, perché usciti dalla pandemia abbiamo visto tutte e tutti con forza come le disuguaglianze siano amplificate da un momento di crisi. Dobbiamo semplicemente unire giustizia sociale a giustizia ambientale. Il prossimo mandato è cruciale sia per la tenuta sociale della città, penso ai diritti primari, il diritto alla salute, il diritto all'abitare, sia per la giustizia ambientale. Sarà il mandato in cui davvero dobbiamo lottare per annullare le emissioni entro il 2030, candidando Bologna ad essere una delle 100 città europee selezionate dalla Commissione europea per questo. Hai accennato, ci sono molti candidati VIP, definiamoli così per capirci tra noi. Non c'è il timore che forse invece tutte queste personalità molto forti, uno, ci possono essere degli esclusi per semplicemente un gioco matematico, e due, invece, che possono speccare degli individualismi poi in una fase successiva? Abbiamo pensato, ci abbiamo ragionato tanto, e in realtà quello che pensiamo è che la forza di questa lista sia il collettivo. In un momento in cui la cittadinanza spesso si sente sempre più sola, anche dopo la pandemia, per noi la forza è quella di creare un collettivo che mostra ai cittadini e alle cittadine: non sei sola, ci sono io che sono una persona come te che si sta candidando. E penso davvero a tante persone che proprio danno la forza, per esempio i candidati più giovani, o se in ad afrodiscendente, ce lo diceva ieri in assemblea: voglio che i bambini e le bambine afrodiscendenti vedano qualcuno come me che prova questa sfida. Ci siamo detti che non importa chi entrerà, io 5 anni fa sono stata una sorpresa, ma ho potuto continuare a portare avanti le lotte di coalizione civica anche grazie alle competenze di chi non è stato eletto, perché chiaramente abbiamo formato dei gruppi territoriali, dei gruppi tematici in cui si è continuato a lavorare ognuno sulle sue competenze, ma insieme per formare la nostra visione.